presento due vecchi amici miei, Somme a zero sciani, sono i due di denari e insieme a loro tu risparmierai assai. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Bolle, mille bolle blu, bolle per intornarle, bolle, mille bolle blu che volano, e volano, e volano. Cara Deborah. Eccoci. Cara Deborah, buongiorno, bentornata a Due di Denari. Grazie. Secondo me c'è stata una certa perfidia da parte tua e di Marco Lombardo nello scegliere codesto brano interpretato dalla grande Mina. Io comincio ad avere un pochino di paura, perché questo mercato americano che corre senza soluzione di continuità, a questo punto bisogna guardarlo con un pochino di prudenza, con tutte le precauzioni, con la mucchina, con i guanti, con la mascherina. Molto distanziati. Molto distanziati. Perché siamo partiti con Mina e le bolle? Perché potrebbe essere che ormai possiamo parlare di bolla sul mercato tecnologico. Il Nasdaq è ieri un nuovo record, lo Standard & Poor's un nuovo record, il Dow Jones non ti dico a che livelli è finito, e abbiamo stabilito anche un altro primato, quello di Apple. Cosa ha fatto? Ha una capitalizzazione di borsa monstra, sopra i 2000 miliardi. E ha superato la capitalizzazione di borsa dell'intera borsa inglese, del FTSE 100. Cioè tutte le azioni quotate al FTSE 100, esatto, non arrivano a capitalizzare, a valere quanto valgono le azioni della sola Apple. Esattamente, che peraltro ha fatto anche lo split lunedì, quindi un'azione si è divisa in quattro per consentire anche, certo, per generare magari un ulteriore danno, per consentire anche a piccoli risparmiatori di acquistare delle azioni Apple. E insomma c'è un po' di fermento nel settore tecnologico americano, ma lo raccontiamo da diverse settimane, soprattutto da quando abbiamo utilizzato tanta tecnologia anche per lavorare a distanza in questi mesi. E questo ha un po' rimescolato tutte le carte, però essendo oggi giovedì ti vorrei ricordare, noi il giovedì a Investire Informati abbiamo sempre, a Due di Denari abbiamo sempre fatto Investire Informati. Lo facciamo anche oggi. Ma anche a Investire Informati abbiamo sempre fatto Due di Denari, si poteva dire. Esatto. La sostanza è tutti sono i giovedì. Sono le due facce della medesima medaglia. Tutti i giovedì noi parliamo di investimenti e di risparmio e di investimenti. Allora, poiché è giovedì, abbiamo ripreso la stagione, la regular season mi viene da dire, ecco, allora a questo punto sfruttiamolo e parliamo anche oggi di Investire Informati. Hai per caso toccato un termine sportivo? Ho toccacciato qua e là un termine sportivo perché vorrei proprio provocarti sugli sportivi quest'oggi. Beh guarda, la provocazione è stata più per la tua casa calcistica ultimamente. Ma non solo, diciamo così che oggi facciamo una quasi una derivazione da Il Serpente Corallo, per chi ha potuto ascoltare la trasmissione nel mese di agosto, il sabato, la domenica nel mese di agosto, cioè abbiamo voluto concentrarci su questi pseudo consulenti, che tanto consulenti non sono, che sono sedicenti, più che altro dei consulenti finanziari, come si dice. Eh sì, sono più che altro dei truffatori, bisogna dirlo, cioè dei serpenti corallo, personcine magari graziose che parlano bene, si esprimono bene, magari guidano anche macchine lussuose, amici degli amici, quindi una reputazione sulla carta, come dire, cristallina. Esatto, e poi scompaiono con i nostri risparmi, per questo noi li chiamiamo serpenti corallo, animali graziosissimi dal morso letale. Questo però, Mauro, nel caso peggiore, perché ce ne sono anche altri di casi in cui per la verità il consulente magari è anche abilitato ad operare, ha sulla carta tutte le qualifiche, ma per accaparrarsi un buon cliente, in questo caso lo sportivo lo è perché generalmente ha, come dire, dei compensi e dei redditi migliori di tanti altri, propone pur di accaparrarsi questo cliente magari degli investimenti con rendimenti al di fuori di ogni mercato, perché adesso proporre un rendimento del 25%, non so neanche su che base temporale, ad un grande campione del volley come è successo a Lollo Bernardi significa veramente volerlo turlupinare ad ogni modo. E quindi in quel caso lì, quello che racconteremo questa mattina, non abbiamo ben capito dalle cronache che abbiamo letto se il consulente in questione fosse un truffatore o meno. Ha proposto un investimento del tutto fuori luogo, dati i tempi che corriamo. Quindi ci sono anche altre situazioni un po' diciamo strane. Che poteva essere perlomeno un vanaglorioso. Ma tutto questo lo racconteremo dopo l'abituale giornale radio del risparmio. Io prima mi consento di ricordarvi i numeri di telefono. 800 24 00 24 è il numero verde, mentre 349 238 6666 è il numero per inviare sms o comunicare con noi via WhatsApp. Tutto ciò premesso, con il consenso della regia che mi guarda attenta dall'altra parte del vetro, io chiederei il lancio del giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Oh, com'è bella l'uovo carina, oh, com'è bello saperla vendemmiare e far l'amor con la mia bella e far l'amore. Dai, che piano piano, adesso siamo con un folk anni 60, anni 70, siamo partiti con una Mina primi anni 60, arriviamo anche ai tempi moderni, Deborah. Perché l'uva fogarina? Perché il povero Veneto, stavo pensando, perché l'ho raccontato anche a Focus Economia la settimana scorsa, è stato flagellato dal maltempo che ha compromesso molto pesantemente, insomma, la vendemmia di quest'anno che sta iniziando. Ma la vendemmia è alle prese anche con altri problemi. Insomma, avevamo questo provvedimento, come ricorderai bene, perché l'abbiamo anche raccontato a Due di Denari, del Ministero dell'Agricoltura, appunto, della ministra Teresa Bellanova, per così riportare un po' di manodopera sui campi, ma in realtà il provvedimento non è che abbia proprio esattamente sortito gli effetti che aveva pronosticato e che voleva. No, e poi c'è il problema della burocrazia, mm-hmm. perché comunque rimane l'obbligo per l'utilizzo del personale tipo occasionale, per l'utilizzo ad esempio per la vendemmia, del contratto di prestazione occasionale, il contratto che si usa dal 2017, che comprende tutta una serie di passaggi che scoraggiano così l'utilizzo, per così dire, estemporaneo. La vendemmia è sempre stata, diciamo, storicamente il momento anche di ritrovo magari di studenti, di persone che ne approfittavano quasi per una giornata, esatto. un paio di giorni fuori dalle città, insomma, come se fosse un po' un diversivo accanto a un lavoro. Però con il contratto di prestazione occasionale tutto questo è diventato molto molto più complicato, tant'è vero che oggi sul Sole 24 Ore appunto potete trovare questo allarme lanciato dagli imprenditori agricoli, dalle principali confederazioni, cioè Coldiretti, CIA, Confagricoltura, che chiedono alla politica di guardare al settore agricolo con maggiore attenzione, il settore agricolo che tra l'altro lamentano è stato escluso da tutte le misure del decreto agosto, che pure si è molto impegnato sul mondo del lavoro. Un'altra notizia è relativa ad una disavventura finanziaria, in questo caso che ha visto come protagonista una pensionata della provincia di Bari. La vogliamo raccontare questa storia perché è anche questa vicenda è un assist perfetto per il tema che affronteremo questa mattina di Investire Informati, cioè la scelta del consulente finanziario giusto per i nostri bisogni. E generalmente un buon consulente lo riconosciamo anche perché ci propone di diversificare i nostri risparmi e di non concentrarli tutti in un unico prodotto, in un'unica soluzione di investimento, come ha presumibilmente fatto questa pensionata della provincia di Bari, che aveva investito e aveva acquistato fra il 2009 e il 2014 attraverso Banca Apulia, che ora è incorporata in Banca Intesa San Paolo, azioni della ex Veneto Banca, l'istituto di credito appunto Veneto che controllava la ex Banca Puglia, e poi è stata successivamente messa appunto in liquidazione coatta amministrativa. Questa signora aveva investito 100.000 euro in queste azioni e ora l'arbitro per le controversie finanziarie della Consob ha condannato la Banca Intesa San Paolo a risarcire questi 100.000 euro a questa pensionata. L'arbitro Consob ha accolto le contestazioni della risparmiatrice, che lamentava il mancato rispetto da parte della banca, quella originaria naturalmente, quella presso la quale aveva fatto questo investimento, degli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle azioni e sulla inadeguatezza dei titoli. La notizia ci è stata fatta sapere dall'avvocato Massimo Melpignano, che è legale della risparmiatrice e anche responsabile nazionale Banca e Finanza di Consumer Italia, l'associazione dei consumatori con la K. E Melpignano che cosa ha detto? La decisione dell'arbitro è importante sotto due profili, perché da un lato accerta le responsabilità della ex Banca Apulia nella vendita di titoli illiquidi e rischiosi e non adeguati al profilo della consumatrice, quindi è un precedente estremamente importante. Dall'altra parte riconosce l'obbligo a risarcimento in capo a Banca Intesa San Paolo, che, se non ricordo male, Mauro, quando aveva accettato di acquisire per la famosa cifra di un euro Veneto Banca e Popolare di Vicenza, aveva esercitato anche questo cosiddetto diritto alla manleva, cioè aveva detto: io questa operazione la faccio, ma non voglio più rispondere per i pregressi di quello che è successo, esatto, prima sotto i precedenti gestori. E invece qua mi pare che la pronuncia dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consob vada in una direzione diversa, quindi sarà importante magari prossimamente anche approfondire questo tema. Oggi lo toccheremo dal punto di vista diverso. Non mettete tutte le uova nello stesso paniere, diversificate. Se la signora, noi speriamo, avesse molto altro rispetto ai 100.000 euro investiti in azioni Veneto Banca, ma nel caso in cui appunto così non fosse stato, anche questo è stato un grave errore della risparmiatrice in questo caso. Ti do un'ultima notizia prima di passare al nostro tema della giornata. Segnati per favore questa data, mercoledì, sì? 4 novembre prossimo. Ah, e che succede? Abbiamo perché qualcosa da fare insieme. Mercoledì 4 novembre diventerà finalmente operativo il bonus mobilità dolce. Quindi bonus bici, bonus monopattini, eccetera, eccetera. Bene, eravamo sul pezzo allora i giorni scorsi. Diciamo che avevamo segnalato come ci fosse una certa, così, surplus, per usare un termine ciclistico, perché sì, gli acquisti agevolati partono da maggio, però bisogna tenersi le fatture e aspettare che parta questo portale. Allora, arriverà, l'ha detto ieri Sergio Costa, il ministro dell'Ambiente a Radio 24, arriverà il decreto in Gazzetta il 5 di settembre, dopo 60 giorni partiranno i rimborsi dal 4 novembre. Il ministro ha ribadito che non ci sarà un click day, cioè i soldi non finiranno, ci saranno risorse per tutti, quindi non bisognerà affannarsi. Intanto io il 4 novembre sull'agenda me lo sono segnato. Ma perché ti sei comprato la bicicletta e non me l'hai detto? No, ma così, giusto per verificare, sai, se c'è il portale, non c'è il portale. Ottimo. Bene, senti, invece ieri hai toccato anche il tema dello smart working e naturalmente gli ascoltatori ne hanno approfittato per lasciare qualche messaggio alla nostra segreteria telefonica. Sentiamo. Dillo a due di denari. Smart working. Io voglio andare in ufficio. Da casa mi perseguitano fino alle 10 di sera. Ma tanto sei a casa, un piffero, voglio andare in ufficio, che quando ho finito. È una maledizione sta roba. Ciao. Guarda, voi comuni mortali queste cose le avete dovuto aspettare il Covid e il lockdown per sperimentarle. Io che sono un povero professionista, oggi ho il mio studio professionale, che è in un altro luogo rispetto alla mia abitazione, ma per tanti anni ho avuto il mio studio professionale addirittura nella mia cameretta a casa dei miei genitori, dove dormivo e lavoravo. In pratica lavori sempre, questo è sicuramente un problema, cosa per cui io infatti sconsiglio vivamente il lavoro da remoto / agile / smart working in inglese. Già ti porti a casa i problemi, ci manca se addirittura c'è le attrezzature per lavorare. Piccole dosi, lavorare da casa va bene, esagerando non va bene. Quindi cercate di tornare a lavorare nei vostri uffici, che vi garantisco che è miliardi di volte meglio. Infatti tutto il problema del diritto alla disconnessione, no, caro Mauro? Allora, mi hanno suggerito in questi mesi, in cui anche io qualche volta ho fatto questa riflessione, perché da casa io ritengo di aver lavorato un bel po' di più, per molte più ore, era anche una situazione straordinaria. Distinguiamo i telefoni, c'è quello del lavoro e quello personale, punto e basta. È uno dei tanti modi, forse il principale, con il quale ci possiamo poi difendere dalla pressione quando questa è esagerata, anche in termini di essere ricercati continuamente. Guarda, ne ha parlato dottamente, chi devo è? Dire, l'avvocato Aldo Bottini, che chi è il presidente peraltro degli avvocati giuslavoristi italiani, proprio ieri con me qui a Due di Denari. La puntata, lo dico a beneficio degli ascoltatori che non avessero potuto ascoltarla, è ancora naturalmente a disposizione sul nostro sito www.radio24.it. L'avvocato peraltro ha ribadito che c'è il diritto al rispetto di un orario di lavoro, quindi le telefonate, le richieste in giornate che dovrebbero essere di riposo, il sabato, la domenica, ma anche altri giorni di riposo si aspettano da contratto, ecco, non sono previste per lo smart working. Giustamente hai detto tu, è un periodo di emergenza, tutti stiamo facendo dei sacrifici e quindi magari di di buon o cattivo grado, si accetta anche questo, ma non siamo ancora in un alveo di completa correttezza. Esattamente. Hanno avuto, sono certa, lo stesso problema in questi mesi anche i consulenti finanziari, che con questi mercati erratici avranno avuto naturalmente un telefono rovente. Telefoni roventi saranno stati certamente tempestati di richieste di chiarimento da parte dei loro assistiti. Appunto, parliamo, come dicevo, dei consulenti finanziari che questa mattina abbiamo interpellato, perché vogliamo anche fare il vademecum della ricerca del consulente adatto ai nostri bisogni. Purtroppo gli sportivi non trovano sempre quello che fa al caso loro. Partiamo. Investire informati. Però non è un problema solamente degli sportivi, Mauro. Temo che il serpente corallo possa mordere un po' tutti, però guarda, abbiamo scomodato due esperti come sempre di valore mondiale, perché anche se la stagione è nuova non si cambia, anche in questa epoca 2020-2021 Due di Denari avrà sempre ospiti di rilievo mondiale. Allora, sia in ordine alfabetico per cognome sia per dovuta galanteria, diamo il benvenuto ad Alma Foti, vicepresidente ANASF con delega all'educazione finanziaria. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari, bentornata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E accanto ad Alma Foti, Fabrizio Taccuso, consulente finanziario indipendente. Buongiorno anche a lei, dottor Taccuso. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e buongiorno agli ascoltatori. Due casi clamorosi che ci hanno dato il pretesto per tornare a parlare di questo argomento, che è un argomento al quale a Due dei Denari siamo sicuramente molto affezionati, al punto che poi abbiamo anche voluto scriverne in Risparmiare è facile se sai come fare. Abbiamo fatto proprio in quel caso la lista delle raccomandazioni che bisognerebbe seguire bene per consentirci di fare un'adeguata valutazione del consulente finanziario che scegliamo. Allora, quali i casi? Quello di Antonio Conte, l'ex CT della Nazionale di Calcio, attuale CT dell'Inter. Proprio nella giornata in cui stava rinegoziando il suo contratto con l'Inter, appunto, abbiamo appreso che da Londra il signor Massimo Bocchicchio gli aveva orchestrato una truffa finanziaria mica da ridere, al punto da sottrargli oltre 30 milioni di euro. Da lì poi a qualche giorno abbiamo scoperto l'altro caso, quello che ha visto come malcapitato protagonista Lorenzo Bernardi, Lollo Bernardi, un altro grande campione della pallavolo italiana di qualche anno fa, che pure avrebbe accettato i consigli di un sedicente consulente finanziario che gli avrebbe fatto andare in fumo 130 mila euro, quindi una cifra inferiore, ma sono sempre tanti tanti soldi. Chissà, insomma, che caratteristiche avevano, che credenziali avevano, Mauro, i consulenti ai quali questi due sportivi si erano rivolti, come tanti altri nel passato, perché poi abbiamo alla lista anche dei casi pregressi che magari poi racconteremo. Abbiamo un cassetto pieno, anzi un rettilario, trattandosi di serpenti sì, corallo. Esatto. Ti dico questo e lo dico anche ai nostri ospiti. Allora, ad esempio, dice Bernardi una cosa che sembra quasi da manuale: era il compagno, questo appunto truffatore, questo sedicente consulente, di una persona cara, non avevamo motivo di dubitare di lui, quindi già la prossimità in qualche modo che fa abbassare le difese. E poi raccontava di lavorare nella finanza, beh certo, la parlantina, la lingua sciolta, quello favorisce, e di avere importanti conoscenze. Sapevamo che aveva molti amici nel mondo dello spettacolo, un mondo peraltro, Deborah, anch'esso funestato da qualche truffa illustre. Infatti, ricorderai il Madoff dei Parioli qualche anno fa, che aveva truffato attori, presentatrici televisive, per non parlare di quanti anni i diamanti in tasca, da Vasco Rossi a tanti altri, quanti anni investito in diamanti. Sembrava una persona seria e soprattutto mi proponeva questo investimento esclusivo con tassi di interesse del 25-27%. Ecco che sono 25-27% dovrebbe essere la cosa che fa scappare a gambe levate. O no, dottoressa Foti, Alma Foti? Sì, ma io stavo mischiavo il sorriso anche alla tristezza su queste cose, perché rimango sempre molto molto allibita. Intanto sul fatto di sottoscrivere fare un investimento sulla base di un rendimento garantito e oltretutto assolutamente fuori mercato, perché il 25% è una cosa veramente veramente assurda. E il fatto che si dà fiducia a delle persone semplicemente perché fanno parte della cerchia dei conoscenti e perché hanno una buona parlantina. Sarebbe come dire che io mi fido di una persona che mi dà dei consigli medici, anche se non è dottore, semplicemente perché mi parla di cose mediche e mi sembra che parli bene. Quindi resto molto sempre perplessa su questo. Su questi casi. T'accuso, su questi casi. T'accuso, però è un dato di fatto che appunto spesso c'è una certa superficialità quasi dei risparmiatori. Del resto si dice che la truffa è un reato tra cooperanti, perché in qualche modo è brutto dirlo, ma anche il truffato quasi partecipa, ovviamente in modo inconsapevole, dell'azione del truffatore. E quindi spesso anche il sapersi presentare, insomma, o essere nella cerchia degli amici può favorire in qualche modo l'operato del malintenzionato. T'accuso. Sì, vero. Infatti io per scelta non vado mai dagli amici neanche dai parenti, a scanso di equivoci, che così non rovino rapporti. Adesso parte la battuta, è chiaro che il tema dell'educazione finanziaria secondo me è fondamentale. Il truffatore trova terreno fertile laddove c'è una conoscenza finanziaria scarsa, quindi tutte le iniziative che voi fate, che fa Alma e che faccio anche io, perché credo molto nell'educazione finanziaria, vanno proprio nel senso di creare quella base che in un paese evoluto dovrebbe esserci proprio per evitare questi casi. È evidente però, come diceva la collega poco fa, che nel momento in cui si prospettano dei rendimenti fuori mercato, secondo me qualche domanda ce la dovremmo fare, certo, tutti, ecco. Le telefonate arrivano, io ne ho ricevuta una anche poco fa, intanto che aspettavo voi, di sedicenti consulenti che parlano di Forex, opzioni binarie, criptovalute. Quindi secondo me fondamentalmente noi dovremmo intanto partire da ciò che conosciamo, e se non conosciamo una cosa prendere tutto il tempo che serve per fare le opportune indagini, perché oggi internet aiuta. In internet non dovremmo cercare solo il ristorante dove andare a cena o l'albergo dove andare in vacanza, ma anche le informazioni che ci servono per fare degli investimenti consapevoli. Quindi diciamo che oggi internet dà la possibilità a tutti quantomeno di informarsi, non bisogna essere necessariamente competenti, ma prendersi il tempo per fare le opportune indagini. Questo è molto vero, cioè non dobbiamo prendere, così come non dobbiamo prendere una laurea in medicina per andare dal medico, però certo dobbiamo essere in grado di spiegargli almeno i sintomi principali, insomma dirgli se abbiamo mal di gola o l'alluce valgo. È vero. Sai anche che adesso molto spesso però chi vuole farsi curare, chi chiede come la prestazione professionale del suo medico, va anche direttamente con la cura perché l'ha letto su internet, no? C'è oggi questo salto di qualità anche nell'approccio con il medico di base. Croce e delizia. Però cara Debora, sono le 11:29 minuti e 48 secondi, adesso 49, adesso 50. Sì? È il momento, insomma, in una parola, delle borse. Chiedo scusa, io ho comprato le birenzine e ci ho guadagnato un sacco. Grazie, Manel. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Mia moglie fa 8 ore di lavoro e è operatrice di call center. Dopo le sue 8 ore effettive di lavoro, mia moglie non ha problemi, chiamate extra e tutto il resto. Quindi io penso anche che bisogna diversificare in base alla tipologia di lavoro che si ha. Sono Emanuele da Pisa e sono un educatore finanziario, sono un consulente che da molti anni faccio anche l'attività di promuovere un progetto che si chiama Economicamente della nostra associazione di categoria. Voi avete parlato della truffa come un reato tra cooperanti, che può essere anche vero. Purtroppo in certi aspetti, in certi casi, secondo me c'è anche una puntina di avidità da parte del... E niente, ci si è tagliato male, ma certamente l'ascoltatore è... consulente finanziario, collega quindi di Alma Foti per Economicamente, che adesso ricordiamo anche che tipo di progetto è per l'ANAS, ma anche collega di Fabrizio Taccuso. Lui diceva sì, sicuramente la cooperazione, ma anche a volte l'avidità, cioè la volontà, la voglia di avere un rendimento più interessante, di disinteressarsi di quello che succede sul mercato, perché se tu noti che il titolo di Stato italiano ad un anno genera un rendimento negativo, non puoi aspettarti di trovare sul mercato qualcosa che renda di più. Ma in ogni caso lo trascuri questo argomento e quindi accetti una proposta magari completamente fuori luogo da parte di un consulente, perché sei avido, no? Di un consulente. Sì. È la verità poi che in qualche modo fa sì che diventiamo cooperanti del truffatore. Ecco, questo è un po' la radice. Ma mi chiedo quanto, e lo chiedo ai nostri ospiti, ad Alma Fotti e a Fabrizio Taccuso, quanto in effetti sia diffusa, sia sufficiente la preparazione di noi risparmiatori? Perché magari, non so, alcuni di noi possono pensare che promettere un rendimento del 25% in un anno sia una cosa sensata, cioè che potrebbe avere un senso, quando, insomma, tu dicevi giustamente, nell'era in cui i titoli di Stato italiani e non solo italiani addirittura vanno a tassi negativi, beh, è un po' difficile che qualche cosa renda il 25%, ma forse non tutti lo sanno, mi viene da pensare. Alma Fotti. Sì, certo, a me è piaciuto molto il termine che ha usato prima il collega, che ha parlato di consapevolezza. Quando si investe, e secondo me consapevolezza non è tanto avere la competenza finanziaria, cioè conoscere gli strumenti finanziari, ma rendersi conto che gli investimenti, prima di affrontare un investimento, bisogna aver chiaro quali sono le proprie esigenze, i propri obiettivi, e quindi costruire una strategia di investimento in un certo orizzonte temporale. È chiaro che se un consulente chiede soldi, innanzitutto non mi chiede informazioni, già bisogna avere un campanello d'allarme, e soprattutto se mi vende un rendimento, tutto quello che rende più del tasso di mercato, è chiaro che ha incorporato un rischio e spesso anche un vincolo, bisogna essere consapevoli. Il rischio di per sé non è una caratteristica negativa, perché può anche essere la faccia di un'opportunità, ma bisogna essere consapevoli intanto che c'è un orizzonte temporale da rispettare e tutta una serie di caratteristiche. Questo tema del vincolo, Alma Fotti, forse non lo abbiamo mai toccato a sufficienza anche noi a Due di Denari. Che cosa vuol dire? Se un prodotto che ci viene proposto, una soluzione di investimento da un consulente, contiene promette un rendimento alto, potrebbe contenere un vincolo. In che senso? Nel senso che spesso ci sono dei rendimenti che sono legati al fatto che si mantiene l'investimento in un certo arco temporale. Quindi se tu tieni l'investimento per 5 anni, 6 anni, ti potrebbe dare questo tasso di rendimento. Questo è il vincolo. Quindi, certo. Però spesso non viene chiarita questa cosa, quindi si compra. E quindi non si spiega neanche al risparmiatore che se vuole disinvestire prima del tempo, prima della scadenza del vincolo, non solo potrebbe certamente non guadagna quello che gli è stato promesso, ma addirittura a volte ci sono anche delle penali di disinvestimento. Esattamente, ci sono delle penali se si rimborsa in un certo arco temporale. Diciamo che però in questo, diciamo, momento di tassi addirittura negativi, avere anche con un vincolo un rendimento che è veramente eccessivo non esiste, perché un conto deve essere sempre un tasso di rendimento che deve essere menzionato a quelli che sono i tassi di mercato. Ovviamente. Io volevo chiedere a Fabrizio Taccuso, ma noi a volte diciamo qui a Due di Denari, o sentiamo dire negli eventi a cui partecipiamo, attenzione al consulente che non sta a sentire il cliente. Allora, un minimo di indicazioni agli ascoltatori: riconoscere, diciamo, il consulente che lavora bene. Qui non si tratta di buono o di cattivo, partiamo dal presupposto naturalmente che ci muoviamo sempre nell'alveo di professionisti. Però probabilmente c'è qualcuno, come in tutte le categorie, che lavora meglio e qualcuno che lavora un po' peggio. Come facciamo noi risparmiatori a avere un minimo di indicazione? Perché è troppo difficile giudicare dai risultati, come stiamo dicendo. Consulente finanziario è un po' come un sarto. Infatti quando vado dai clienti, che poi siano clienti pluriennali o appena conosciuti, non parlo mai di rendimento, ma parlo sempre di obiettivi e di bisogni, perché poi noi purtroppo, chi come me ha qualche anno, è nato con la mentalità del 13 al totocalcio, del super o il 6 al super enalotto, per cui cerchiamo il colpo di fortuna. Il colpo di fortuna può esistere, può capitare, ma vuol dire, proprio perché è un colpo di fortuna non ci si può fare affidamento. La chiave è partire dal cliente, dai bisogni e dagli obiettivi. Noi abbiamo dei soldi, perché questi soldi li investiamo? Nel momento in cui creiamo una cultura, un'educazione finanziaria basata sul partire da quelli che sono i tuoi obiettivi, perché investi? a quanto tempo investi? Devi comprare una casa tra X anni piuttosto che far studiare i tuoi figli, accantonare soldi per la pensione? Quando noi finalizziamo i nostri soldi ad un obiettivo, ad un'esigenza che è in là nel tempo e troviamo chiaramente la soluzione adatta, perché a tempi diversi corrispondono soluzioni diverse. Ecco, quello secondo me è la chiave da far capire alla gente, a prescindere che sia più o meno competente in ambito finanziario. Cioè, nel momento in cui noi introduciamo questa ottica, questa mentalità, cioè perché investi e per quali sono e quali sono i tuoi obiettivi, secondo me lì è il salto di qualità. Finché parliamo di rendimenti non usciremo mai, perché il rendimento è qualcosa che nessuno può garantire. Può essere il più grande consulente finanziario, ma se domani Trump twitta qualche cosa i mercati scendono, e quindi nel momento in cui noi ancoriamo sempre alla ricerca del rendimento sbagliamo l'approccio. Quindi l'approccio è obiettivi e bisogni dei clienti. Ciascuno ha età diverse, tempi diversi, e quindi su quello va tarato l'investimento di un professionista, secondo me, che sa fare il suo mestiere. Certo. Tra l'altro questi sono ragionamenti che si fanno necessariamente all'inizio di un rapporto fra cliente e consulente, ma che poi vanno continuati a seguire, gli obiettivi chiaramente si devono continuare a seguire insieme al cliente, quindi c'è anche una manutenzione dell'attività di consulenza, e anche questo è un test importante per valutare la professionalità di chi ci segue. Volevo leggere alcuni messaggi, Mauro, di un paio di ascoltatori. Uno è carino, Giovanni, che ci scrive: io sono un consulente, quando ho letto l'intervista di Mancini, e adesso vi vado a rileggere questo passaggio a cui si riferisce l'ascoltatore, mi sono chiesto se non era meglio che stessi in silenzio, perché secondo me era un po' la sagra delle superficialità e leggerezze. Se uno come Mancini, che ha sempre avuto la possibilità di trattare investimenti di un certo livello, dice così, mi viene da piangere a pensare il livello di conoscenza finanziaria. Cosa ha detto il CT della Nazionale? Potrei scrivere un libro, come aiutare i giovani calciatori a non farsi rubare i soldi. Purtroppo mi sono imbattuto in qualche malfattore, disavventura capitata anche ad altri. L'inesperienza danneggia molti atleti. Il calciatore è giovane, guadagna cifre enormi, non dà importanza ai soldi, i truffatori gli girano attorno. Il mio consiglio è quello di affidarsi a professionisti. Bisogna avere un avvocato e un commercialista seri. Mancini, che in passato ha perso 1,5 miliardi di lire nel crack di una finanziaria di Tarquini alla Cofiri, che in una giornata si è dissolta come neve al sole. Secondo me non sono banalità quelle che ha detto il CT della Nazionale, perché molto spesso appunto non è che proprio abbiamo l'impulso primario di cercare il professionista più qualificato sul mercato per i nostri bisogni. No, e poi magari non solo i giovani calciatori, ma un po' tutti noi abbiamo la nostra vita, e allora potremmo anche non essere così informati, così acculturati sulle questioni finanziarie. Ma vediamo se ad esempio questa mattina i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono stati attenti, e li mettiamo alla prova subito con il quizzettone. Allora, a chi risponderà telefonando a 800 24 00 24? Accettiamo solo risposte inviate in questo modo, cioè dovete contattare il numero verde e risponderci in diretta, per chi risponderà in omaggio un libro dalla biblioteca di Due di Denari. Bene. Il domandone: abbiamo detto che Apple ha superato in capitalizzazione una grande borsa europea, il listino principale di una grande borsa europea. Quale borsa europea? Traffico. Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno. Mi avete rotto le balle con sto traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Due di Denari. Le buone abitudini non vanno abbandonate. Noi il giovedì abbiamo l'abitudine di rivolgere una domanda, un domandone agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e di mettere così, di omaggiare chi risponde correttamente con un regalino da parte nostra, da parte di Due di Denari di Radio 24. Allora, ripeto la regola base: accettiamo solo risposte che vengono dal numero verde, quindi dovete chiamare 800 24 00 24, solo in questo modo potrete aggiudicarvi l'omaggio. La domanda di oggi è la seguente: abbiamo detto che Apple ha superato con la sua capitalizzazione una grande borsa europea, il listino principale di una grande borsa europea. Vogliamo sapere quale borsa europea è stata superata in capitalizzazione da Apple. Fabrizio Taccuso e Alma Foti non possono partecipare, possono però rispondere a questo ascoltatore, e io, come dire, conoscendoli un po', so già cosa potranno rispondere, perché questo approccio lo consideriamo un po' discutibile anche noi qui a Due di Denari. Un ascoltatore, Nicola, ci chiede: volevo sapere dai vostri ospiti se considerano lo scalping una modalità di investimento seria. Allora Nicola, intanto cos'è lo scalping? E qua dovremmo spiegare, insomma, modalità di compravendita di azioni, obbligazioni, di operare sul mercato approfittando dei rialzi e dei ribassi dei prezzi, e quindi è più che altro un mondo adatto a professionisti di questo settore. Nessuno lo giudica questo modo di operare, ma certamente non è per tutti. Che sia serio o non serio dipende anche dalle piattaforme alle quali ci appoggiamo, ma non è risparmio. Alma Foti, cominciamo intanto da qui: è qualcosa di molto diverso da un'attività di pianificazione finanziaria. Appunto, io credo che tu abbia già chiarito, definendo che cos'è lo scalping, che sicuramente è per esperti e sicuramente non è da risparmiatori, e sicuramente non è nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Quindi attenzione, come dico anche attenzione a questi messaggi che arrivano. Intanto mi stupisco perché anche su siti autorevoli si parla di trading online, della facilità di facili guadagni, senza spiegare quelli che possono essere veramente rischi. E spesso vengono usate proprio anche come portatrici di questi messaggi, addirittura immagini o storie di donne separate che, essendosi trovate un po' in difficoltà per l'avvenuta separazione, ritrovano la loro autonomia e indipendenza finanziaria affidandosi al trading. Troviamo queste pubblicità assurde in circolazione, Alma, quindi anche come donne facciamo qualcosa per impedire che tutto questo continui. Infatti, questo, quando vedo questi messaggi veramente inorridisco, perché si parla di persone che hanno soprattutto donne lasciata dal marito che improvvisamente diventa milionaria con il trading online. Il messaggio lascia veramente, veramente perplessi. Posso aggiungere una cosa, se mi consentite? Prego. Riguardo a quanto avete detto prima del commento sul messaggio di Mancini. La cosa che comunque mi dispiace è che comunque, quando si definiscono gli esperti, dice è importante rivolgersi a un esperto, quindi all'avvocato e al commercialista. Viene nominato come esperto il consulente finanziario. Cioè, non si riesce ad inquadrare che l'esperto in campo di investimento è una figura che si chiama consulente finanziario, o autonomo, o addetto all'offerta fuori sede, ma è un consulente finanziario scritto un albo che è OCF. E tra l'altro ci tenevo a dire questa cosa. Brava, ma allora io ci tengo a dare l'indirizzo: www.organismocf.it. Quando decidiamo di affidarci a un consulente finanziario, appunto indipendente o abilitato all'offerta fuori sede, andiamo a controllare, perché ci vogliamo tutti bene, siamo tutti brave persone, però andiamo a verificare su questo sito se è iscritto all'albo e da quando, insomma, facciamo un controllo. I soldi abbiamo fatto molta fatica a metterli da parte, peccato così affidarli al primo venuto. Certo, poi certo. Allora è semplicissimo, basta scrivere il nome, si va sul sito, si scrive il nome e esce subito. Non si paga nulla, è tutto gratuito, è tutto visibile. Poi magari sono, come dire, professionisti super qualificati, hanno fatto l'esame, si sono iscritti, hanno studiato tanto, poi non è detto che certamente la loro attività la riescano ad esercitare nella maniera migliore possibile, ma quella è un'attività, come dire, di selezione, di screening, di filtro, già molto importante per noi, che possiamo vedere se sono autorizzati ad operare. Questo è già un primo passo importante. C'è una cosa che ha detto Fabrizio Taccuso prima, che mi ha molto colpito. Ha detto: a volte riceviamo delle telefonate, siccome anche a me capita, dottor Taccuso, di ricevere queste telefonate, spesso anche di signore, signorine, non saprei, che hanno un accento straniero, un forte accento straniero, e mi dicono che se investo chissà dove, non capisco neanche bene dove, avrò dei ritorni mirabolanti, insomma la mia vita sarà felicità. E magari poi, non so, mi dicono di consegnare dei soldi così, che so, a una Poste Pay o cose del genere. Per quanto possa sembrare curioso, c'è più gente che viene, come dire, abbindolata con questi mezzi di quanto si potrebbe immaginare. È così, t'accuso? È vero, è vero. E infatti la signora che mi ha chiamato prima aveva uno spiccato accento straniero e parlava di siti particolari. Aggiungo a quello che ha detto la collega anche il fatto che l'attività esiste il sito della Consob, dove sono indicati i soggetti, non parlo dei consulenti come può essere lei o come sono io, quindi persone fisiche, ma anche le società che possono erogare servizi di investimento. Per cui nel sito della Consob ci sono, c'è l'elenco delle società che possono erogare servizi. È chiaro che nel momento in cui sento una persona che mi vuol portare su piattaforme particolari che quasi sempre sono all'estero, la cosa che dobbiamo fare è prendere tempo e fare le opportune informazioni. Quindi nel momento in cui ci portano siti di paradisi fiscali piuttosto che extracomunitari, beh, lì diciamo che dovremmo già cominciare ad alzare le antenne. E alziamo le antenne anche, Fabrizio, quando il consulente in questione ci chiede di consegnargli materialmente del denaro da investire in mano e non opera attraverso l'intermediario finanziario. Esattamente, infatti sia che si rivolga ad un consulente abilitato all'offerta fuori sede che a un consulente indipendente, non ci deve mai essere scambio concreto di denaro. Adesso nel caso nostro, il consulente autonomo o finanziario indipendente, come vogliamo, sì, esatto, adesso, addirittura noi il vantaggio, diciamo qual è, che noi non tocchiamo proprio il denaro del cliente, perché il cliente sceglie la banca dove tenere depositati i soldi, quindi c'è una triangolazione che è ancora più, diciamo, tutelante lato cliente, perché c'è una banca che deposita, un regista che è un libero professionista che dà, come si chiamano in gergo, raccomandazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari. E quindi a volte faccio questa battuta, consentitemi, se mi innamoro della brasiliana non posso scappare con i soldi del cliente, ecco. Quindi il cliente, se il consulente dà fuori di testa, diciamo che ha custoditi, e questo secondo me è un aspetto pratico e psicologico molto importante. Ma la stessa cosa se si rivolge a un consulente abilitato all'offerta fuori sede, deve fare assegni o bonifici che siano intestati a se stesso e non a persone particolari. Non deve mai esserci scambio diretto di contante e mai dare codici, carte di credito, perché è chiaro che lì si apre le porte a possibili truffe. Ecco, quindi anche se vi fidate molto del vostro consulente con il quale avete un rapporto magari decennale, ad un certo punto, proprio animati dallo spirito di amicizia migliore possibile, gli dite: guarda, ti do i soldi, fai tu per me. Il bravo consulente vi dice: no, anche se ci conosciamo da 50 anni, io i tuoi soldi in mano non li prendo, devi farla tu l'operazione. Ti suggerisco io su che cosa, come fare, qual è il migliore strumento per raggiungere obiettivo, ma non posso prendere il tuo denaro né i tuoi codici. Mauro, io vorrei chiedere ad Alma Foti nell'ultimo minuto, perché poi abbiamo naturalmente anche le risposte al nostro domandone. Educazione finanziaria, a ottobre sarà il mese dell'educazione finanziaria, noi possiamo già anticipare che dalla prossima settimana, da martedì, Due di Denari torna con un impegno puntuale sulla materia dell'educazione, la consapevolezza finanziaria. Educazione finanziaria a scuola, economicamente è il programma di ANASF, giusto, che è impegnato su questo versante. Anche nel 2020, anche nell'ottobre prossimo, ci saranno iniziative? A distanza naturalmente, poi immaginiamo, Alma, perché qua con tutta questa disciplina anche per la scuola così difficoltosa, probabilmente sono state un po' pregiudicate anche le iniziative, immaginiamo, di economicamente. Allora, economicamente, che ormai ha compiuto 10 anni, il nostro programma di educazione finanziaria nelle scuole medie superiori, e già in questo periodo abbiamo cercato di riadattarlo nella versione online. Adesso è anche in studio una versione specifica, proprio perché comunque è diverso parlare fisicamente con i ragazzi o farlo tramite webinar. E siamo pronti, abbiamo già delle scuole, siamo molto felici, siamo pronti per continuare ad erogare i nostri moduli, che sono basati sempre sul ciclo di vita, sull'importanza di avere un orizzonte temporale e soprattutto l'importanza della pianificazione, di avere una strategia finanziaria. E per i ragazzi che hanno a disposizione la risorsa del tempo è fondamentale capirlo. Mm-hmm. Come diceva bene Fabrizio prima, si investe per obiettivi, quindi mm-hmm. avere già chiari gli obiettivi per poter poi investire. Per chi avesse bisogno di qualche nozione e qualche lezione di educazione finanziaria nel Mantovano, può andare a trovare intanto Fabrizio Taccuso. La risposta alla domanda, Giuliano da Como: qual è la borsa che è stata superata da Apple in capitalizzazione? È Londra. Eccolo. Bravissimo. Bravo Giuliano, grazie. E noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.